Buona giornata, grazie a Francesco Galante, buona giornata da Mirko Cavallin, dunque in diretta anche oggi dall'MPX di Padova insieme ai didaici alla parte tecnica. Stiamo attendendo, c'è qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia ufficiale per l'inizio di questa seconda giornata di lavori per la quarta festa nazionale di avviso pubblico sul tema legalità organizzata, scuole, imprese, associazioni, enti locali in rete, prevenire, contrastare le mafie al tempo della crisi. Ieri la nostra diretta con l'intervento molto appassionato e applaudito udito di Don Luigi Ciotti, ricordo che lo potete riascoltare andando sul nostro sito bluradioveneto.it, trovate il link dove poter scaricare le oltre 2 ore della diretta di ieri. Anche oggi dunque un appuntamento molto importante, stiamo attendendo infatti l'arrivo, manchi proprio pochissimo, del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso con la scorta. Sarà lui il protagonista principale di questa mattina, che verterà sul tema soldi sporchi quando le mafie inquinano l'economia. Ci saranno anche il presidente degli ordini e collegi professionali, Giuseppe Cappochin, il presidente dell'ANCE Veneto Schiavo, e poi dei 3 sindacati, per la CISL Veneto Maurizio Cecchetto, per la UIL Gerardo Colamarco, per la CGL Emilio Viafora. Modererà l'incontro Alessandro Russello, che è direttore del Corriere del Veneto. L'introduzione e i saluti saranno di Andrea Campinotti, presidente, con Roberto Furlan, presidente della Camera di Commercio di Padova, e Mario Crosta, direttore di Banca Etica. Il procuratore sta entrando adesso in sala. Anche oggi centinaia di studenti delle scuole superiori di Padova riempiono appunto la sala. L'applauso che sta accogliendo il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, il cui intervento evidentemente è molto molto atteso. Vedo l'assessore Piron, padrone di casa, insomma è il coordinatore regionale di avviso pubblico, che sta salutando il procuratore. Ricordiamo che poi i lavori proseguiranno nel pomeriggio sempre qui all'MPX sul tema del gioco d'azzardo, un altro tema di drammatica attualità, alle 16:45, mentre in serata si parlerà di 4 uomini soli, Pio La Torre, il generale della Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la memoria e l'impegno. Domani la festa di avviso pubblico si chiuderà invece all'auditorium del Centro Culturale San Gaetano. Alle 10:45 si parla di amministratori e intimidazioni mafiose, alle 16:15 invece politici, manager e spioni nella Repubblica dell'Andrangheta. La serata di domani si concluderà con uno spettacolo teatrale, La diritta via, la Costituzione e Dante Alighieri, senza distinzione di razza né di lingua, spettacolo teatrale di e con Giuliano Turone, accompagnato al pianoforte da Mirko Lodedo. Appuntamenti che poi ricorderemo anche dopo, mentre in sala appunto ci si sta preparando per iniziare questa seconda giornata di lavori. Ricordiamo che Avviso Pubblico è un'associazione nata 16 anni fa nel 96 fra enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie, con l'intento di collegare e organizzare gli amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione, sui territori da essa governati. E ieri abbiamo sentito proprio una giovane amministratrice, presidente del Gruaro, Chiara Grattoni, che ha portato appunto la sua esperienza. Il tavolo è ormai quasi pronto con tutti i relatori che vi ho citato prima. Credo che anche stamattina ci sarà il saluto di benvenuto da parte dell'assessore Piron. Avvisopubblico.it è il sito ufficiale per conoscere meglio questa realtà. Siamo appunto alla quarta festa nazionale, che è stata in Veneto, lì dove è stato detto ieri magari non c'è tradizione di mafia, ma ci possono esserci interessi da parte della mafia o della cultura mafiosa ad infiltrarsi, e anche le cronache recenti purtroppo ce l'hanno dimostrato. I casi di Piemonte, di Lombardia, ancora non è emerso nulla dal Veneto, speriamo che non emerga, evidentemente che non siano coinvolti amministratori pubblici della nostra regione per questo per questo tragico coinvolgimento, appunto, che contiamo non ci sia nel nostro territorio. E credo che anche stasera Telechiara affronti in qualche modo la questione. E allora c'è Giulia Salmaso con Marco Mesti stasera, Fatti Nostri, dedicata un po' a questo tema, no? Assolutamente sì, un buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori, siamo qui appunto all'MPX di Padova. Ciao Eddie, lo saluto sempre, salutiamo anche tutti i tecnici che stanno dietro queste trasmissioni e queste dirette. Questa sera ore 21 in diretta anche su Blu Radio Veneto, ricordiamolo, Fatti Nostri, la piazza affronta il tema della mafia e anche della corruzione, perché in realtà purtroppo a seconda di quello che abbiamo sentito nelle cronache degli ultimi tempi sembra che il confine sia molto labile quando si parla di politica e quando si parla di gestione della cosa pubblica. Ne parleremo assieme all'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, al past president di ANCE, quindi dei costruttori Pellicciari, con Libera Padova, assieme a Matteo Lenzi e insomma moltissimi altri ospiti che cercheranno insomma di farci capire là dove sta il confine e soprattutto se cosa nostra è davvero cosa nostra, insomma. Speriamo di no, ovviamente. Grazie Giulia, buon lavoro. Vedremo anche i contributi da questa mattinata, li vedrete, li sentirete appunto questa sera, mentre va ad iniziare la seconda giornata di questa quarta festa con l'assessore Claudio Piron. Cordiale e caloroso saluto a nome dell'amministrazione, a nome di tutta la città. Benvenuto a tutti gli ospiti, tutte le mattine. Grazie per questa presenza, grazie ad Avviso Pubblico, al presidente Andrea Campinotti e a tutti gli amici delle città che sono associate in questa associazione per la fiducia data alla nostra città e che ha organizzato questa tre giorni, questa quarta festa nazionale, ricevendo il testimone da Corleone, dove eravamo l'anno scorso. E quindi, pensando a Corleone, un saluto anche a tutti i giovani, a tutte le scuole, a tutte le istituzioni e le persone impegnate da nord a sud in questa grande battaglia di civiltà per la giustizia e la legalità. Grazie ai partner che ci hanno sostenuto, porteranno anche un saluto oggi come ieri. Dico a voi giovani che siamo qui per rispondere ad un grande compito: riflettere su come e perché organizzare la legalità al fine di raggiungere la giustizia, di andarci più vicino. Ieri abbiamo detto cittadini si diventa. Don Ciotti, il procuratore Pristipino, il professor Ciconte ci hanno detto una cosa certa: primo, il vero primo problema siamo noi, non le mafie. Siamo noi cittadini, noi paese, se da 400 anni continuiamo a parlare di mafie, se da 100 anni parliamo di 'ndrangheta. Vuol dire che c'è omertà, complicità, silenzi, non conoscenza di pezzi importanti anche di noi, della società, delle professioni, delle imprese, della politica. Secondo, bisogna lavorare per fare delle buone leggi. C'è un grande dibattito sulla legge contro la corruzione che ancora non prevede il falso in bilancio. E questo è un problema. È dal 99 che l'Europa ci chiede di adeguarci a questa normativa. Ci sono le leggi, c'è la legge elettorale che non soddisfa nessuno, c'è una legge sul gioco d'azzardo in discussione che crea dei problemi anche a noi stessi come amministratori delle città. E però nel momento in cui avessimo le più belle leggi c'è sempre un altro aspetto che probabilmente viene ancora prima, e cioè la nostra coscienza di persone e di cittadini, per dire che possiamo sempre dire di no alla criminalità, alle mafie, all'illegalità, all'ingiustizia e dire di sì alla giustizia. Questo può farlo ciascuno di noi. Allora il nostro compito è quello di non essere complici. Ieri ci dicevano questo: conoscere, studiare, capire. Secondo, organizzare le azioni, le leggi, i percorsi. Terzo, responsabilizzare, cioè educarci, educare la nostra coscienza, le nostre scelte. Questo è il compito che ci aspetta per organizzare la legalità quale strumento necessario per raggiungere, avvicinarci alla giustizia. Nel sito di Avviso Pubblico e dei giornali locali troverete molte informazioni, le relazioni, gli interventi. Io vi suggerisco questa cosa che ieri mi sono appuntato. C'è stato chiesto dai relatori ieri di distinguere, difendere e diffondere la buona politica rispetto alla cattiva politica, la buona economia rispetto alla cattiva economia, la buona finanza rispetto alla cattiva finanza, i bravi professionisti da quelli non bravi e che lavorano nell'illegalità. C'è una foto lì a destra del palco e ve lo indico, il professor Luigi Mariani, perché è stato un testimone dell'onestà intellettuale, amministrativa. Professore, giovanissimo, a 23 anni, preside per molti anni dell'Università di Ingegneria, un innovatore, un uomo di cultura, un uomo dell'arte, un uomo che si è messo a servizio della comunità facendo per molti anni il vice sindaco, l'assessore all'urbanistica, all'edilizia, settori vitali e gangli delicatissimi per chi amministra. Eppure mercoledì, che l'abbiamo salutato per l'ultima volta, tutti, destra, sinistra, centro, avversari politici, amici, tutti hanno riconosciuto la sua moralità, la sua onestà, un uomo d'altri tempi, io dico un uomo di cui abbiamo bisogno ancora oggi. E credo, sono convinto, che nell'indicarlo questi valori, questo patrimonio devono diventare i nostri, i vostri valori, i valori di questa città. Concludo così, ragazzi. Vi invito ad uscire da qui diversi da come siete entrati. Se uscite uguali a come siete entrati, Einstein vi direbbe che abbiamo buttato via del tempo. Io spero oggi qualcuno vi metta un po' in crisi, perché nella crisi nascono le scintille per il cambiamento. Ma subito vi faccio queste proposte e vi do anche la disponibilità ad aiutarvi come amministrazione. Primo, invitate nelle vostre scuole i testimoni, soprattutto giovani che sono impegnati nel sociale, che stanno facendo buona politica e buona economia. Ce ne sono tanti, a Padova come al centro e al sud d'Italia. Secondo, cambiate subito il modo di fare le gite. Smettiamola con fare gite per divertirci e basta. Anche divertirsi, anche. Ma pensate ad andare in Puglia, in Calabria, in Sicilia, dove ci sono scuole, ragazzi, libera, addio Pizzo che vi sta aspettando per andare a lavorare nelle terre confiscate alle mafie. Potete deciderlo voi subito nelle vostre classi, nei vostri consigli di istituto. Terzo, e dateci una mano ad aumentare i viaggi della legalità. Terzo, decidete di gemellarvi con delle scuole di altre parti d'Italia. Ospitate i vostri coetanei nelle vostre case, andate ospiti nelle loro case. Incontrerete persone, genti di cui non immaginavate la capacità di accoglienza. Questo ci dite voi quando venite nei viaggi e ve l'abbiamo proiettato prima. E questo io vorrei sentir dire ancora di più dai vostri ritorni. Avviso pubblico vi può aiutare a costruire questi legami di legalità. Infine, potete decidere da soli, con la classe, con la scuola, di aderire subito, non domani, a Libera, e potete invitare i vostri comuni ad aderire ad avviso pubblico, perché non vorrei sentire tra un anno, due anni, quando ci ritroveremo fra qualche mese, che qualcuno di voi, di noi, come amministratori, si aggiunge al coro di coloro che continuano a dire «Io non sapevo, io non ho visto, a me non l'ha detto nessuno, ma non potevo quel giorno». Ma è mai possibile che si ripetano queste cose? Non è possibile cambiare, non tocca a me. Queste cose non possiamo più permetterci di dirle dopo l'incontro di ieri, di oggi e le tante cose che sentirete. Allora, fate subito, facciamo subito, oggi, tutto quello che è in nostro possesso. Un grande, credo Primo Levi, se ricordo bene, diceva: se non ora, quando? Buon lavoro. Allora, continuiamo con i saluti. Io invito a dare il suo saluto il presidente nazionale di Avviso Pubblico, Andrea Campinotti. Non c'è, benissimo. Allora, mi dicono che non è arrivato. Ecco, sta arrivando, ok. Ha avvisato che sta arrivando pubblicamente. Quindi, allora, invito il presidente della Camera di Commercio di Padova, Roberto Furlan, a salutare, che come come Banca Etica ha dato una mano a mettere in piedi questo, questo appuntamento. Ecco qua. Buongiorno a tutti, porto volentieri i saluti della Camera di Commercio di Padova, ringrazio dell'invito e dell'organizzazione di questo evento proprio avviso pubblico, con il quale abbiamo collaborato da subito alla sua realizzazione. Un particolare saluto al Piero Grasso, procuratore nazionale antimafia, per la sua, che ci onora con la sua presenza qui oggi. Devo dire che il contrasto delle mafie è un impegno reale per il sistema imprenditoriale e per tutta la comunità padovana e veneta. Oggi questo convegno ha un obiettivo molto importante per il sistema economico, quello di approfondire e sviluppare un modello di legalità organizzata che sia voluto e condiviso per approfondire e sviluppare un modello da tutti, e la Camera di Commercio di Padova è la prima linea già da tempo nel contrasto alla contraffazione e più in generale alla criminalità, assieme alle altre reti istituzionali e associative padovane. Proprio quest'anno abbiamo finanziato un corso di alta formazione per il contrasto sociale mafioso e il rafforzamento della legalità democratica, realizzato assieme alla Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova, con lo scopo di formare specifiche competenze in questo campo. Agli imprenditori è chiaro che non si può agire sul mercato libero se manca la piena legalità. Sono tre le parole chiave nel contrasto ad ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel nostro territorio: responsabilità, legalità e una sana imprenditorialità. È di fondamentale importanza agire in una logica di corale legalità organizzata per contrastare le due direttrici su cui agisce l'illegalità: la corruzione e il malaffare. Queste due componenti hanno l'effetto di distorcere il mercato e di remare contro le logiche della sana competizione. Padova ha un tessuto imprenditoriale ricco, perciò non meravigliamoci se diventiamo fonte di interesse per le mafie. A tale riguardo i giudici all'apertura dell'anno giudiziario lo avevano detto chiaramente: l'allarme era causato dalla crescita dei reati contro la pubblica amministrazione, un segno evidente di quanto sia cresciuta la capacità della criminalità di permeare la società veneta. Se vogliamo che il sistema economico del nostro territorio continui a rimanere sano, dobbiamo tenere alto il livello di attenzione e di guardia, perché le modalità attraverso cui la criminalità cerca di infiltrarsi sono molte e tutte molto legate all'eccezionale situazione economica di questi anni. Serve vigilanza sociale e una rete di contrasto che coinvolga enti, istituzioni, imprese e associazioni per difendere la cultura della legalità. I risultati dell'attività investigativa dimostrano l'impegno delle forze dell'ordine, alle quali va il nostro applauso, nel contrasto al malaffare, ma sono anche il segnale preoccupante non solo del rischio, ma anche della reale presenza di infiltrazioni malavitose nelle nostre aree produttive, amplificato, come detto, dall'intensità della crisi di questi anni e dalle problematiche del credito bancario che hanno creato condizioni di vulnerabilità. Se le mafie nel Mezzogiorno sono oramai da tempo considerate un problema storico, al Nord l'accettazione e quindi la formazione di un'opinione pubblica cosciente e pronta a creare solidi anticorpi di legalità deve essere costruita con costanza e tenacia. Deve essere prioritario in questo senso l'impegno della pubblica amministrazione, dello Stato e degli enti di sbloccare i crediti vantati dalle imprese, perché questa è una grave carenza nei corretti rapporti tra cliente pubblico e fornitori locali e pone le piccole imprese padovane nelle condizioni di ricercare quel sostegno finanziario che tante volte gli può essere negato dal sistema del credito bancario. Padova si conferma crocevia di una pluralità di interessi e conseguentemente di presenze inquietanti. Il rischio è permanente e grave. A livello economico il problema coinvolge i settori legati al ciclo di rifiuti, della logistica, il settore edilizio, ma anche il commercio. Tant'è che questi settori sono da tempo al centro dell'interesse della direzione antimafia. Serve quindi non solo una reazione vera e forte a tutti i livelli, ma scelte e fatti concreti. Serve rafforzare sensori e anticorpi sul territorio e nella comunità, a partire dalle istituzioni e in collaborazione forte col mondo associativo. Grazie, buon lavoro a tutti. Si è arrivato il presidente nazionale Carpinotti, altrimenti procediamo Banca Etica, con il rappresentante di Banca Etica, che non sono un bravo presentatore, spero di cavarmelo un po' meglio come intervistatore, che è Andrea Tracanzan, che è responsabile della comunicazione di Banca Etica. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, sarò veloce anche per non rubare spazio al dibattito. Porto il saluto di Banca Etica e simbolicamente il saluto non solo della sede centrale che ho qui a Padova, ma di tutti i nostri migliaia di soci che sono attivi su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Come banca possiamo dire di essere una buona pratica, in quanto raccogliamo molto di più denaro dai risparmiatori al nord e in proporzione prestiamo di più al sud. E prestiamo a chi? Soprattutto a tutte quelle organizzazioni, cooperative sociali, associazioni giovanili e via dicendo, che al sud sono impegnate proprio nella battaglia per la legalità. Legalità e etica sono un binomio inscindibile e proprio da questo binomio dipende tanta della parte della nostra attività, al nord come al sud dell'Italia. È per questo che per noi non è indifferente la provenienza del denaro che raccogliamo e siamo attenti a tracciare tutta la filiera del denaro. Siamo stati purtroppo l'unica banca in Italia a non aver accettato i soldi rientrati in Italia con il provvedimento dello scudo fiscale. L'impiego del denaro, anche questo per noi non è indifferente conoscere a chi prestiamo il denaro dei risparmiatori. Prestiamo solamente ad attività che sono attive in campo sociale e in campo ambientale. Tra queste attività è nostro compito e dovere statutario monitorare il rispetto ai principi della legalità. Lo facciamo attraverso una rete di valutatori sociali e non solo applicando quelle che sono le attenzioni rispetto alla capacità economica di restituire un prestito, ma anche andando a vedere quali sono le relazioni sul territorio di queste organizzazioni. Finanziamo da anni, siamo state una delle prime istituzioni di credito a farlo, le cooperative sociali al sud. La cooperativa sociale Lavoro e Non Solo a Corleone è stata una delle prime iniziative che abbiamo sostenuto attraverso il credito. Non solo, la ricerca e l'impegno di Banca Etica va anche su progetti di carattere europeo. Siamo attivi con un progetto che si chiama SCORE per valutare e verificare tutti i sistemi per monitorare e mappare le infiltrazioni malavitose nel campo delle energie rinnovabili. È uno dei settori che sta più a cuore a Banca Etica ed è uno dei settori dove purtroppo la criminalità organizzata è più attiva. Aderiamo da sempre a Libera Nazionale e a tutte quelle organizzazioni come Avviso Pubblico che lottano in Italia per cambiare un sistema che non ci piace e che per fortuna sempre più persone prendono veramente in considerazione. Per ultimo, l'11 novembre inaugureremo una nuova ala della nostra sede centrale a Padova, che non a caso sarà intitolata Peppino Impastato. Ci sarà il fratello di Peppino e Letizia Battaglia, una fotografa che ha seguito negli anni a Palermo, in tutta la Sicilia, tutte le vicende di mafia, e vi invitiamo a venire a vedere la sua mostra fotografica. Peppino Impastato diceva che dalla bellezza discende tutto il resto. Anch'io credo che questo sia proprio vero, ed è riscoprire anche la bellezza di cambiare, di non avere paura e di andare verso una società che sia basata effettivamente sui valori della giustizia. Grazie e buon lavoro. È arrivato? Andiamo avanti. Bene, allora io inizierei con il procuratore Piero Grasso e gli farei una prima domanda legata a uno dei temi evocati, fra l'altro, da questi interventi. Il tema dei soldi, delle infiltrazioni mafiose nel Veneto ricco, pieno di aziende, pieno di imprese, imprese pulite che vanno bene, ma anche imprese che hanno problemi. Voi avrete il doloroso fenomeno anche degli imprenditori che si sono suicidati in un periodo di crisi. Questa è la domanda che le faccio, procuratore. Le aziende sono maggiormente sotto pressione e ci sono aziende che devono ricorrere a denaro, ci sono fenomeni di usura, c'è stata una grossa inchiesta in Veneto con un centinaio di avvisi di garanzia, di denunce nei confronti di imprenditori che erano usurati, tra virgolette, dalla mafia, no? Anzi, dalla camorra di Casal di Principe, in questo caso, e dei casalesi. E quindi imprese sotto tiro, crisi, capitali che servono, aziende che prestano i soldi alle imprese a tassi usurari e anche capitali sporchi che arrivando anche a comprare le imprese spesso poi vengono svuotate, no? Ecco, quindi raccontiamo ai ragazzi questo fenomeno e qual è, secondo lei, il rischio che in questo momento sta correndo il Nord-Est, il Veneto e il Nord, che sono territori che solo tra virgolette da alcuni anni, no? Entrano nella narrazione purtroppo dolorosa e tragica della mafia. Intanto grazie per l'accoglienza, grazie per avermi invitato. Io ho mantenuto un impegno che avevo preso a Vicenza e, nonostante tutte le difficoltà logistiche di spostamenti, sono qua e sono contento di esserci, di trovarvi qua, perché chi oggi è qua ha già fatto una scelta di campo, una scelta per capire, per cercare di dire, e poi per poter la propria azione quotidiana indirizzarla verso quelli che sono le cose che ascoltate. Ho sentito che ieri avete fatto una buona dose di conoscenze antimafia. Se possiamo diminuire un po' il volume, forse è meglio. Forse spegnere quello. Grazie. Quindi dicevo che ieri ho sentito gli oratori che vi hanno intrattenuto, e la qualità è certamente eccellente. Bene, oggi quindi il tema che mi viene proposto è quello dell'economia, è quello della presenza della criminalità organizzata che produce dei costi economico-sociali che costituiscono, e questo bisogna comprenderlo, un'ulteriore tassa, è come se non bastassero quelle di istituzioni, imprese, cittadini. E si materializza questa tassa non solo nelle estorsioni, nel taglieggiamento delle attività commerciali e imprenditoriali, nell'inquinamento appunto dell'economia legale, ma anche nel deterioramento dei costumi e dei valori etici attraverso la corruzione, attraverso il ricorso all'evasione fiscale o la fuga dei capitali illeciti e delle risorse umane e materiali al di fuori dei territori d'origine, dal sud al nord o addirittura al di fuori dal nostro paese. E quindi è sempre più d'attualità il tema del condizionamento e dei limiti imposti dalla criminalità ai processi di sviluppo. E oggi siamo in presenza quindi di un'economia sommersa, un'economia che sfugge a qualsiasi controllo, e il denaro delle mafie non puzza, non fa odore e non si ferma mai. Corre veloce, cambia posto di continuo e quando si materializza è irriconoscibile. Profuma di fresco e di bandeggiato dopo decine di passaggi, di transazioni. Ricompare in un circolo diverso come una linfa nuova per nuovi affari che sembra di essere un volano per l'economia. E invece lì sta l'inganno. Certo, per noi che facciamo questo lavoro di repressione, rintracciarlo nei forzieri dove appunto sta in ammollo prima di finire nelle centrifughe degli scambi e degli acquisti, delle cessioni e delle vendite, è la sfida del nuovo millennio. Governi e analisti si ingegnano per trovare soluzioni per catturare non solo i latitanti ma soprattutto oggi come priorità quel denaro sporco, quel denaro che viene principalmente dai traffici della criminalità organizzata, che ormai sappiamo funziona come una holding con tante collegate, partecipate a diramazioni in tutto il mondo e schiera professionisti e consulenti che lavorano proprio per cancellare le tracce della provenienza del denaro sporco prima che diventi una opportunità di investimento nella economia pulita. E quindi con il denaro delle mafie poi si costruiscono fortune, si demoliscono anche l'esempio che vi è stato anticipato dal mio intervistatore è proprio tipico. Oggi in un momento di crisi economica il potere del denaro è sempre più forte. In un mondo che non ha liquidità, chi ha il denaro e ce l'ha soprattutto a costo zero, perché venendo dai traffici criminali non ha un costo come quando lo deve prestare una banca. E quindi questo produce un inquinamento di tutto il sistema economico. E il denaro si va appostando nei settori più moderni del mercato, soprattutto nel settore dell'energia, nel settore del riciclo dei rifiuti, ma anche nel commercio, nell'imprenditoria e spesso impone opere inutili. Ma produce che cosa? In un momento appunto di crisi si offre per come avvenire in aiuto della situazione economica e dei soggetti. È lì che bisogna diffidare cercando di capire qual è l'origine di questo aiuto e l'origine di questo denaro. Perché abbiamo assistito a tante di queste situazioni in cui piano piano si inizia con piccoli prestiti, poi chiedendone la restituzione a tassi appunto usurai, tassi elevati, che non si riescono a pagare. Poi si incomincia a entrare nell'impresa, nella società, intestandosi una parte delle azioni. Dopodiché si continua sempre di più finché viene svuotata l'impresa dalla precedente, dal controllo del precedente proprietario, dei precedenti soci, che diventano come uno scudo, alle volte rimangono intestatari dell'azienda, e per evitare il sequestro, la confisca da parte della magistratura, dalle forze di polizia. E questo è un fenomeno che sempre di più abbiamo notato che si verifica soprattutto nelle zone a più alta redditività e dove è più facile nascondersi, perché in un regime in cui c'è poca economia, il sorgere di un'impresa, per esempio in Sicilia o in Calabria, fa sorgere subito un'indagine per capire chi è che sta facendo questa impresa, chi mette i capitali. Ma quando nasce in un contesto in cui c'è una moltitudine di attività e si nasconde e si confonde, per noi, dico, investigatori, per noi che addetti appunto alla repressione, forze di polizia, è sempre più difficile riuscire a far emergere questo denaro che è sommerso, è invisibile nella sua natura criminale. E questo denaro deriva non solo dai traffici, ma deriva anche da altre attività che in passato sono state tollerate, possiamo dire, e sono frutto di quell'area grigia che opera sempre di più ai limiti con la criminalità. E questo denaro, per esempio, proviene anche dall'evasione fiscale. Pensate che secondo uno studio di Confindustria, e poi confermato anche da altri enti come l'Ufficio delle Entrate, oggi c'è una carenza, c'è un'evasione fiscale che ammonterebbe a qualcosa come 120 miliardi di euro, di cui 40 miliardi solo di IVA, di imposta sul valore aggiunto. E questo su 270 miliardi di imponibile. Poi, se sono veritiere le stime che tante organizzazioni, tra cui un'organizzazione non governativa come Transparency International, riferisce, le stime della corruzione ammonterebbero in Italia a 50-60 miliardi di euro. Sono tutti soldi che vengono sottratti al nostro sistema economico. E perché sono soldi che vengono pagati tra corrotto e corruttore, cioè il corruttore è colui che paga, il corrotto è colui che ha un dovere di pubblico ufficiale e fornisce un servizio o una attività che è contraria a quelli che sono i suoi doveri. Tutto questo, se viene messo insieme a tutti i profitti dei traffici criminali, tra stupefacenti, traffico di rifiuti, traffico di merci contraffatte, traffico di opere d'arte, tratta di esseri umani, tutto questo compendio arriva a quasi un terzo della nostra economia. E allora, ma perché i cittadini onesti, quelli che vivono di stipendi, quelli che vivono in maniera di dipendenza assolutamente accertabile, devono sopportare da soli tutto il peso dei servizi sociali? È un problema di equità sociale, è un problema di democrazia, è un problema di libertà, di una libertà dell'economia che deve essere garantita e perché riconosciuta anche dalla nostra Costituzione. E allora dobbiamo incominciare a cambiare il modo di considerare queste attività che appaiono, diciamo, o che sono state tollerate in passato e che tutto sommato ma è considerato furbo chi riesce a evadere o quello che attraverso la corruzione riesce a ottenere qualcosa che altri non ottengono, privilegi e delle situazioni di favore. Beh, tutto questo io penso che debba venire da una debba essere stravolto da una rivoluzione che è anche culturale, nel senso che deve essere considerato un comportamento assolutamente riprovevole, per non dire un reato grave, anche questa diseguaglianza che si crea fra i cittadini tra chi paga e deve sopportare il peso dei servizi sociali e chi non paga e viene considerato un furbo. Io lo chiamerei col suo vero nome, cioè corruttore o corrotto, e lo chiamerei estortore, usuraio, lo chiamerei come merita di essere chiamato, non certamente furbo come finora è stato ritenuto. Bene, e quindi in questa situazione non c'è dubbio che dobbiamo essere tutti, le istituzioni innanzitutto. La repressione che noi cerchiamo di attuare non può che essere un momento, ma occorre la prevenzione, occorrono le segnalazioni di situazioni certamente non accettabili. Occorre tenere bene gli occhi aperti, soprattutto in un contesto come il vostro, in cui ci sono gli anticorpi per poter reagire, per poter riconoscere questa situazione. È una situazione assolutamente diversa da quella di altre regioni del sud, per cui ci sono le possibilità di far venire fuori queste situazioni e dire no ai soldi sporchi che inquinano sempre di più la nostra economia. Anche finisco raccontandovi un episodio di un collaboratore di giustizia, il cosiddetto pentito, che negli anni '80, mentre lo interrogavo, non era molto credibile, per dare un segno della sua attendibilità incominciò a dire: ma sapete, io posso farvi trovare dei soldi. Dico, ci dica dove. Questi soldi li posso, sono in Svizzera, ma devo andare io, senza di me non si possono prendere. E allora si organizza questo viaggio in Svizzera col pentito, pensando che ci portasse presso una banca, magari dove c'era un conto cifrato che solo lui poteva aprire o far aprire. Bene, invece la sorpresa fu che ci portò su una collina sopra Lugano, c'era uno chalet, e nei pressi di questo chalet, che era stato affittato tempo prima dei suoi parenti, nei pressi dice di scavare, e incominciando a scavare viene fuori un bidone con dentro un sacco nero di plastica con centinaia di migliaia di dollari. Erano gli anni '80, c'era stata un grosso traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, famosa indagine che si chiamava Pizza Connection. Pizza Connection perché dentro delle valigie con i dollari furono trovate delle magliette con la pubblicità di una pizzeria di New York, da cui nasce il nome di questa grossa operazione. E allora gli chiesi, dico: scusi, ma perché è venuto a sotterrare questi soldi in Svizzera? Cioè, mi hanno detto che in Svizzera i soldi sono più al sicuro. Sì, la mafia non è sempre intelligente, però insomma spesso lo fa, e non è solamente, ci sono tanti colletti bianchi oggi, no? Che lavorano. La mafia è una è invisibile o è visibile nella sua invisibilità, appunto attraverso personaggi che si insinuano un po' dappertutto. Pensate, oggi procuratore, abbiamo pubblicato una notizia sul nostro giornale, i carabinieri del ROS oggi sono andati in un comune del Veneto che si chiama Due Ville, dove lei sicuramente, e hanno sequestrato dei documenti perché sembra che la caserma dei carabinieri di Due Ville sia stata costruita in parte, perché l'appalto è stato bloccato da una ditta che ha due sedi, una a Due Ville qui in Veneto e una a Lamezia Terme in Calabria. Poi magari via fora chiederemo che è calabrese, anche se c'è stata una polemica su questo, no? Sull'individuazione regionale. Però, e quindi hanno un'azienda che è stata, che non era un'azienda veneta che ha appunto due sedi, che aveva iniziato i lavori, che sono stati bloccati perché è in ritardo con i lavori, quindi un'operazione sospetta, per cui questa operazione sospetta fatta su un appalto di una caserma dei carabinieri. Quindi voglio dire, è talmente trasversale, sono talmente trasversali e impudiche, no? Da un certo punto di vista. Quello che io volevo chiedere al procuratore, ed è la stessa domanda che vorrei fare così anche al vicepresidente di Confindustria Peghin, che è padovano e che quindi lavora sul fronte delle imprese, come potete ben capire. Recentemente, procuratore, a Verona, durante la presentazione del libro di Pierpaolo Romani, Calcio Criminale, io avevo fatto una domanda al procuratore, il suo collega Papalia, Guido Papalia, sugli imprenditori veneti, e gli avevo chiesto: ma c'è un fenomeno di omertà? Di omertà si parla sempre del sud, è un sostantivo legato al sud, è cucito addosso al sud. C'è un problema di omertà anche al nord? E lui ha detto: direi addirittura che c'è più omertà al nord che al sud, perché c'è l'interesse degli imprenditori a fare affari con la mafia. Lei è d'accordo con questa dichiarazione o ritiene che sia stata esempio eccessiva? C'è il problema dell'omertà. E poi la stessa domanda vorrei che rispondesse anche Peghin. Facciamo rispondere prima Peghin. Allora chiediamo a Peghin se, naturalmente ci sono tante aziende, tantissime aziende che sono la maggior parte oneste, che devono lottare se stesse con questi imprenditori che si alleano o che vengono taglieggiati o che si alleano in alcune occasioni con la mafia. Rifiuti in Campania, abbiamo avuto un imprenditore veneto che è andato in Campania addirittura a sobillare i propri operai contro la raccolta dei rifiuti per ottenere margini rispetto agli appalti che aveva perso. Per cui vuol dire, Peghin, c'è un problema degli imprenditori, quindi omertà legata magari alla paura ma anche alla convenienza dettata magari dalla crisi di fare affari con la mafia? Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ma devo dire, cioè, inizialmente ero molto impressionato dai dati che ha citato il procuratore sulla la rilevanza del sommerso, della corruzione e degli effetti, che peraltro sono dati citati da più fonti e quindi non mi stupiscono. Sulla domanda devo dire, le associazioni di rappresentanti qui al nord sicuramente non è di questo tipo, stanno adottando sempre di più anche dei codici etici per verificare nei casi in cui all'interno delle associazioni di rappresentanza si trovino situazioni strane, diciamo, per estromettere questo tipo di imprese dalle organizzazioni di rappresentanza. Quindi io sicuramente non lo vedo come un fatto diffuso. Certamente leggiamo sui giornali, e ci sono stati casi anche qui a Padova di situazioni singole piuttosto pesanti, che credo vengano molto all'attenzione in questo momento di grande crisi economica. Qui viviamo in un'area in cui l'identificazione con l'impresa, cioè dell'imprenditore, delle persone che lavorano nell'impresa, in molti casi è totale e a volte anche, forse direi, non sana, per cui questo ha prodotto in situazioni drammatiche come quelle dei suicidi, ma in alcuni casi anche situazioni di appunto di collusione con la criminalità organizzata. Quindi questo penso e condivido ancora quello che ha detto poco fa il procuratore, che dovrebbe partire da un approccio di revisione culturale. Qui mi fa piacere vedere che gran parte del pubblico è formato da ragazzi del liceo, perché penso che si parta proprio da qui. Cioè, credo in un mondo in cui i modelli sono diventati sempre, il mondo della comunicazione in cui i modelli sono diventati sempre di più quelli del successo a ogni costo, del raggiungere successo economico di qualsiasi tipo a ogni costo, purtroppo credo che questo ha permeato molto anche la nostra società al nord, quindi a volte le scorciatoie, quindi da lì la diffusione della corruzione diffusa, sono andate oltre nel nostro, riguardando un po' tutte le frange sociali, quindi impresa compresa. Credo comunque che in queste aree ci siano valori diversi, siano ancora molto prevalenti rispetto a altre aree del paese, però non ci possiamo assolutamente chiamare fuori, perché vediamo giornalmente anche casi pesanti di questo tipo qui. Quindi credo che si debba, dal punto di vista delle organizzazioni di rappresentanza, collaborare il più possibile con le forze dell'ordine, con le istituzioni. Sono stati fatti molti protocolli in questo senso anche in questa regione per cercare di affrontare il tema, per esempio, degli appalti pubblici e privati e altri con le prefetture. E quindi credo che si debba partire però proprio dalla base, quindi un'occasione come questa per diffondere certi messaggi penso sia molto importante. Sì, procuratore, usi pure quel microfono perché mi dicono che deve parlare da lì. Allora, da un'indagine che è stata fatta qualche anno fa dal CNR, nel Centro Nazionale Ricerche, è stato chiesto a 1000 imprenditori che avevano investito nel Sud qual era quella cosa che non si aspettavano di trovare, che aveva rallentato la loro azione imprenditoriale al Sud. La domanda era fatta perché si pensava che tutti rispondessero la mafia. Invece il 100% hanno risposto la pubblica amministrazione. Perché? Perché nell'ambito imprenditoriale spesso la mafia può essere vista come un costo di produzione che tutto sommato può entrare nel budget dell'impresa, dell'attività imprenditoriale, e diciamo, essendo prevedibile in certe zone naturalmente, si può contenere, prevedere. Mentre la pubblica amministrazione, che ti fa ritardare nei tempi, per esempio, l'impiego delle tue attrezzature, delle tue imprese, delle tue risorse economiche, è un fattore così incalcolabile che ti può produrre dei danni ben maggiori della mafia. Questo al Sud. E allora, quindi c'è un costo al Sud, una zavorra che è data dalla pubblica amministrazione, ma certamente c'è anche un costo che è dato all'impresa dalla presenza della mafia. E questo costo, cioè le imprese come reagiscono a questa presenza? Io vi racconto quello che conosco, cioè quello che avviene al Sud, però oggi c'è questo fenomeno che Leonardo Sciascia chiamava quello della palma, che col mutamento climatico, con l'aumento della temperatura, la palma, che è diciamo un albero tipico delle zone calde del sud, si sta piano piano risalendo la penisola fino ad arrivare al nord. Fuori di metafora, quindi, io vi parlo della consapevolezza di com'è la situazione al sud. Al sud ci sono le imprese che pagano e lavorano tranquillamente e non hanno nessun rapporto con la criminalità, nel senso che pagato quella quota che viene richiesta, lavorano tranquillamente. Pagano la sicurezza, il costo della sicurezza. Altrove magari questo costo è fatto da polizia privata, da guardiani, non so. E beh, lì alle volte la guardiania non ha bisogno di essere presente, basta una guardiania simbolica. Poi c'è l'impresa che resiste all'associazione mafiosa, e ce n'è ora sempre di più, e che sì, però hanno bisogno di unirsi in un'associazione anti-racket, anti-usura, per potersi attraverso il numero difendere e non restare isolati. E questa è un'altra realtà che aumenta sempre di più. E proprio Confindustria in Sicilia è stata la portabandiera di una rivoluzione a livello imprenditoriale, perché ha deliberato di espellere tutti quegli associati di Confindustria che il pizzo o non avessero denunciato il tentativo di pagamento del pizzo, cioè dell'estorsione, cosa che poi si è estesa anche in altre regioni come iniziativa. Però c'è anche l'impresa che noi chiamiamo connivente, cioè qualcosa di diverso, cioè l'impresa che cerca di trasformare quello che è un costo in un vantaggio. Come? Perché si rende disponibile al sistema mafioso, al sistema imprenditoriale mafioso. Come? Dando la possibilità di riciclare il denaro attraverso la propria impresa, rendendosi disponibile a essere capofila nel momento in cui ci sono delle cordate per l'aggiudicazione degli appalti, in cui si distribuiscono già all'interno della classe imprenditoriale con certi accordi, in cui anche la mafia ha la sua parte, le sue percentuali. E quindi l'impresa connivente è l'impresa che gode del sistema e addirittura si avvantaggia di questo sistema avendo dei privilegi. Non posso dimenticare quando ero procuratore a Palermo, nel corso di un'inchiesta, un imprenditore che aveva vinto un grosso appalto pubblico al centro della Sicilia doveva fare la famosa gettata del cemento, quindi aveva raccolto tutte le sue maestranze, tutti i suoi dipendenti, ed era pronto per quella giornata importantissima nella vita della creazione di un'opera pubblica. Solo che il giorno prima la ditta che doveva fornire il cemento telefona e dice: ci dispiace, ci sono rotti gli impianti, non possiamo fare la fornitura. Allora noi captiamo una telefonata di questo imprenditore che telefona, dopo aver consultato le pagine gialle, la società di calcestruzzi più vicina, l'impresa di calcestruzzi più vicina, che avrebbe potuto fornire appunto quello che serviva. Alla telefonata la prima domanda che fa l'interlocutore: dove si trova l'opera pubblica? Quello dice: la zona, ci dispiace, lì noi non possiamo fare forniture di calcestruzzo, ma io sono disposto a pagarvi qualcosa in più del prezzo di mercato. Ci dispiace, non possiamo fornire il calcestruzzo al di fuori della zona di nostra competenza. E questo è il libero mercato? Questa è libera concorrenza? Adesso io spero che questo non sia in altre regioni d'Italia e che sia comunque una cosa che si è riusciti a superare, perché queste mie cognizioni risalgono a una decina di anni fa. Però stiamo attenti a non creare regimi di monopolio o di oligopolio, addirittura con l'imposizione del territorio, dove la libertà di mercati, la libertà dell'economia va a farsi benedire. E allora io penso che l'imprenditore oggi deve comprendere che la legalità è conveniente, perché mette tutti sullo stesso piano, su quel piano in cui devono stare gli imprenditori, dove devono stare i commercianti, dove deve stare la libera concorrenza, che è la garanzia del mercato. Il mercato ha la sua forza e bisogna riconoscere la forza del mercato se c'è libertà, altrimenti non è più un valore, è una zavorra. E quindi bisogna far sì che si reputi conveniente la legalità, la trasparenza. Ecco perché, più che la certificazione antimafia, che richiede molti tempi e molti accertamenti e che spesso oggi non riesce a garantire dalle infiltrazioni mafiose nell'imprenditoria, negli appalti, dell'imprenditoria negli appalti pubblici, proprio perché da tempo ormai le società contengono dei nomi che sono prestanome, uomini di paglia, gente che non ha né arte né parte e che si trova titolare di quote sociali o di attività imprenditoriali che naturalmente non avrebbe mai potuto avere. Quindi agiscono per fare da barriera nei confronti del capitale appunto mafioso. E quindi è difficile andare a trovare effettivamente il nominativo che è indicativo di una appartenenza mafiosa o di qualcosa appunto come secondo l'esempio che è avvenuto qui perché ha prodotto il sequestro dei lavori della caserma dei carabinieri. Però io devo un attimo fare delle precisazioni. Il solo fatto di venire da Lamezia Terme non può essere criminalizzante. Ecco, adesso io bisogna non entro nella polemica che immagino ci sia stato, perché ci può essere anche un'impresa che segua tutte le regole. E allora noi dobbiamo chiedere che si rispetti le regole, cioè che ci sia la trasparenza dei propri acquisti, vendite, che i conti siano tracciabili, che tutte le spese siano tracciabili, che si rispettino tutte le regole per il lavoro, che non ci sia lavoro nero, che non ci sia gente assunta è pagata in nero con le buste paga, con una cifra e poi la cifra che viene data è inferiore alla busta paga e l'impresa fa nero perché giustifica un pagamento che in effetti non c'è stato al lavoratore. E queste sono realtà esistenti nel mondo imprenditoriale. Oppure c'è anche l'inverso, cioè di operai specializzati di alta tecnologia che vengono pagati con la busta paga meno di quello che gli si dà sotto banco, proprio per evitare di far salire il prelievo fiscale su quei soldi che dovrebbero essere dati. Oppure la mancanza, come avviene spesso nell'impresa mafiosa, ha mancato rispetto delle norme antinfortunistiche, della prevenzione, l'evasione quindi dei contributi previdenziali per i lavoratori. Questa è la regola nell'impresa mafiosa, ma stiamo attenti che non diventi la regola o comunque una parziale elusione della regola nelle imprese che si dichiarano legali. Quindi io vedo nel mondo imprenditoriale una prospettiva di dare fiducia a chi rispetta le regole, indipendentemente se appunto è di Lamezia Terme o se è di un paese della Sicilia o se è di Favara o se viene da qualche altra parte. L'impresa deve garantire il rispetto delle regole e questo significa garantire la parità dell'imprenditore. L'imprenditore più bravo è quello che riesce a fare innovazione tecnologica, a conquistarsi i mercati. la mafia blocca lo sviluppo e la crescita perché non dà questa possibilità, non mette alla pari, per cui c'è il merito, qualcuno deve conquistare il mercato e quindi si deve impegnare a fare sempre meglio. Quando c'è il monopolio, l'oligopolio, è chiaro che questo sparisce, il che determina la mancanza di crescita e di sviluppo delle stesse imprese. Penso. Quindi le faccio una domanda proprio da giornalista, ecco, non solamente da convegnista. In Piemonte e in Lombardia ci sono molte più inchieste sui fenomeni mafiosi che in Veneto. È perché secondo lei il Veneto è meno a rischio, ci sono meno infiltrazioni, o perché c'è semplicemente magari un ritardo nel fenomeno? Cioè, nel nord, ecco, come situiamo il Veneto nord-est? Qual è il rischio che secondo lei corre la nostra regione, corrono le nostre regioni? Non va che voglia fare classifiche o graduatorie, cioè la magistratura e le forze di polizia sono messe in grado di combattere adeguatamente questo fenomeno? Cioè, è una domanda molto secca e a lei la risposta. Allora, intanto in Lombardia si sono scoperte queste cose perché in Piemonte perché si sono fatte le indagini. Tutti hanno gridato allo scandalo, ma noi sapevamo che questa situazione era presente, bisognava soltanto farla venire fuori e l'unico modo era le indagini. Forse non ci aspettavamo il voto di scambio, il voto venduto per 50 euro. Questa è stata assolutamente una sorpresa. Noi pensavamo che questo potesse avvenire in certe zone disastrate del sud, non so, allo Zenne di Palermo, a Scampia o nella periferia di Rosarno, dove effettivamente ci sono persone che hanno il problema di dare da sfamare, da mangiare ai loro figli, e quindi 50 euro possono risolvere il problema di una giornata. Ma che possa avvenire nella ricca Lombardia, questo non ce l'aspettavamo. Ma e quindi certamente sono fenomeni che in parte ci sorprendono, però non dimentichiamo che oltre al voto di scambio. Per cui c'è bisogno effettivamente che il reato di voto di scambio sia allargato, non alla dazione del denaro contro il voto, cosa sempre difficile, difficile da provare, difficile anche da vedere. Molto spesso basta l'accordo appunto sui futuri privilegi che e favori che saranno fatti. E adesso il Veneto certamente presenta situazioni che potrebbero nascondere anche cose dello stesso genere, ma non credo che sia per una carenza di indagini, perché io che seguo il fenomeno in tutta Italia so che sono sottoposte a controllo le presenze, le attività. La difficoltà qui è riuscire a collegare le indagini. Io non riesco a parlare con questo. Sono problemi di microfono. La tecnologia. Dicevo che ci. No, non è un problema di microfono, è un problema di volume, di amplificazione. Allora, dicevo questo, che il problema non sono, quindi il controllo esiste, il problema è riuscire a provare che il denaro che viene investito in queste zone sia di provenienza criminale. E questo non si può fare senza un collegamento con le indagini che vengono fatte sui luoghi d'origine. Questo è il problema, è la difficoltà. Quindi la difficoltà è di mettere risorse e mezzi per fare indagini senza che si vedano i reati all'apparenza, il che è un po' difficile in un momento in cui c'è anche una crisi di risorse sotto questo profilo. Quindi certamente si fa tanto in queste zone, sono venute fuori appunto tante indagini che poi però hanno bisogno di essere controllate per dare la visione di una, magari di una punta di un iceberg, di un fenomeno un po' più esteso. Abbiamo presenze nel Veneto, presenze criminali, dico da sempre. Io non dimentico che negli anni 70, 80, adesso mi ricordo, c'era anche Totuccio Contorno che insomma era soggiornante obbligato da queste parti, insomma uno che poi è diventato un importante pentito della mafia, così come diciamo bande criminali adesso non voglio, sono state presenti e hanno mostrato i legami con criminalità organizzata ben più ampia, e quindi diciamo dei mafiosi sono stati arrestati, erano latitanti proprio in queste regioni. Non dobbiamo però criminalizzare tutto e bisogna stare attenti a non generalizzare, per cui l'indagine approfondita che ha riscontro è quella che dà meglio di tutte la presenza di certi fenomeni. Io però continuo a insistere che qui, a differenza di altre zone e di altri dove si creano altre zone, dove anche al nord si creano delle comunità molto estese, all'interno delle quali si ricreano le condizioni del paese di origine, allora lì è possibile che i fenomeni si riproducano, si clonino come nel territorio di origine. Ma in zone dove questo non avviene è più difficile, perché c'è e ci deve essere, e questo è il punto, il controllo sociale, che vale molto di più del controllo istituzionale. E poi questo raccordo tra controllo sociale che viene anche dal singolo cittadino e istituzione che immediatamente si mette in movimento per cercare di capire e bloccare fenomeni del genere. Curatore, il fatto che qui a Padova ci sia abiti il figlio di Totò Riina in questa comunità, cioè è stata una grossa polemica in Veneto, no? Con chi? Grazie per il gentile applauso. Io non volevo rubare il tempo agli applausi, che non è che il procuratore Grasso viene qui ogni giorno, per cui volevo utilizzare tutto il tempo per farlo parlare e rispondere, anche perché poi c'è anche qualcun altro che vorrei far parlare, per cui procuratore, il caso Riina. Sì, il caso Riina, poi magari chiudiamo e passiamo e facciamo un po' di dibattito che con gli altri. Vabbè, forse non appassiona più nessuno, però Padova si è divisa sulla presenza del figlio di Riina qui. Da una parte chi ha detto è giusto che venga qui, se gli faccia una vita, eccetera eccetera, dall'altra chi dice invece no, è un portatore, voglio dire, di problematiche che sono quelle che lei ha illustrato adesso. Lei cosa pensa rispetto a questo? Allora, io anziché darvi il mio parere vi racconto una storia. La storia di due bambine, una di 11 e una di 13 anni, che andavano a scuola in un piccolo centro provincia di Palermo, ma nell'entroterra. Queste bambine hanno innanzitutto il padre che è capo di un clan mafioso che viene arrestato. Mentre in carcere la madre va a colloqui col padre e si fa portatrice di una serie di pizzini, di bigliettini, ormai pizzini si può usare anche al nord, di bigliettini che fa pervenire al resto del clan mafioso e contenenti gli ordini e le direttive di suo marito che stava in carcere. Anche la donna, siccome vengono intercettate e captate queste attività, viene arrestata per concorso in associazione mafiosa. Quelle due bambine sono a scuola, dove si fa uno dei tanti percorsi di legalità che appunto i professori sempre di più fanno oggi nelle scuole. Ebbene, la madre dopo un po' viene scarcerata, mandata agli arresti domiciliari perché aveva un altro figlio, un bambino di 17 mesi che stava coi nonni. Quando le bambine tornano a casa, impongono alla madre di collaborare con la giustizia, perché avevano ormai si sentivano dentro la scuola come ghettizzate, etichettate anche loro come mafiose, perché avevano i genitori entrambi in carcere come mafiosi. Capiscono, pur essendo piccole, che non si potranno mai più liberare di quell'etichetta, che per tutta la vita saranno considerate mafiose. Questo è già una grande rivoluzione culturale, perché in passato venivano rispettate come figlie di mafiosi, oggi vengono ghettizzate, vengono respinte. E quindi convincono la madre a collaborare con la giustizia anche a costo di denunciare il padre, perché la madre conosceva degli elementi che erano potevano accusare il padre, che una notte si era ritirato con gli abiti sporchi di sangue proprio quando era stato commesso un delitto di cui veniva ritenuto responsabile. Bene, e quindi queste ragazze poi sono venute al nord, naturalmente dapprima protette, poi hanno studiato, si sono inserite nel lavoro, eccetera, eccetera. Però bisogna comprendere anche che bisogna dare la possibilità di staccarsi da addosso questa etichetta. Allora il problema non è di chi sei figlio, chi sei, da dove vieni. Il problema è come ti comporti, che cosa fai. Questo è il controllo che deve avvenire nelle zone diverse. Non credo che la sua presenza da sola possa inquinare, se però si comporta in una maniera tale da non crearsi un'organizzazione in questo territorio. E se ha rotto completamente certi legami, quindi io sono non per criminalizzare il solo fatto di essere figlio di, ma di verificare, per dare quella che è una possibilità che la nostra Costituzione dà, di poter rieducare, pensate, i condannati anche a terribili delitti. C'è la possibilità di cambiare all'uomo, ai ragazzi, bisogna sempre dare questa possibilità. Io ci credo perché ho assistito a tante di questi, a tanti cambiamenti, a tante, non dico conversioni, ma passaggi, crisi sotto questo profilo, che poi hanno prodotto anche collaboratori di giustizia che si sono decisi a passare dalla parte dello Stato perché è in preda a una grave crisi di coscienza. E quindi perché non dare questa possibilità, naturalmente sotto il controllo che non inquini l'ambiente in cui vive. Qui con noi oggi c'è anche uno dei protagonisti della vita economica, che fa parte di uno dei settori che sono maggiormente sotto pressione e sotto tiro da parte della criminalità organizzata. Parlo del presidente dell'ANCE Veneto. L'ANCE è l'Associazione Nazionale dei Costruttori, quindi edilizia, appalti, case, complessi edilizi, quindi è un settore tradizionalmente, no? All'interno del quale si così, si infiltrano gli interessi, i capitali della mafia, e gli onesti devono difendersi, fanno molta più difficoltà a difendersi che in altri settori. E qui abbiamo un protagonista di questa battaglia, che è una battaglia che si è qui in Veneto magari meno che al sud, però insomma, come abbiamo visto anche al nord ci sono molte infiltrazioni. Ed è una battaglia ancora più importante, più ardua, perché è un settore molto in crisi, quello dell'edilizia. La crisi finanziaria nel mondo è cominciata con i mutui delle case in America. Il primo settore, e quando un settore come l'edilizia è in crisi, va in crisi tutto il sistema, perché dall'edilizia dipendono tanti altri settori del mondo economico. Insomma, se non si fanno case non entrano i mobili nelle case, non entrano gli accessori per le case, per cui l'edilizia è fondamentale come snodo dell'economia mondiale e italiana in particolare. Quindi chiedo a Luigi Schiavo di fare delle riflessioni, di rispondere, di dire quali difficoltà, quali rischi ci sono in un momento come questo, soprattutto appunto per gli onesti, no? Grazie direttore, grazie a voi di avermi voluto qui oggi. Molte cose sono già state dette dal procuratore Grasso. Evidentemente il nostro settore è un settore altamente a rischio, soprattutto in molte parti d'Italia. Per quanto riguarda la situazione, è ulteriormente a rischio. Noi siamo un settore molto debole, le nostre imprese sono deboli, sono facile preda di potenziali infiltrazioni, perché in questo momento, come ricordava prima, non ci sono soldi, non vengono concessi contributi, le banche stanno praticando tassi, vorrei dire, al limite dell'usura, lo Stato è praticamente assente, ci ha abbandonato con uno scellerato patto di stabilità che oramai anche a Bruxelles, penso gli usceri sanno che ci stiamo nascondendo dietro a un lampione della luce, che fa sì che le imprese che producono, che fanno il loro lavoro, che investono, che sottoscrivono dei contratti, non vedono rispettati quegli adempimenti, sostanzialmente non vengono pagati dalle amministrazioni, creando tutta una serie di situazioni difficili, drammatiche per i nostri imprenditori, per i nostri lavoratori, per le nostre aziende, e rendendo effettivamente il nostro settore molto debole ed è facile aggredire un settore debole. Io credo che uno Stato che si comporta in questo momento, in questo sistema, sia uno Stato immorale, non garantisce il nostro rispetto nei confronti dello Stato, nei confronti dell'amministrazione. So che sto dicendo delle parole forti, ma anche ieri a Roma, dall'Alto Adige fino a Trapani, tutti quanti si sono lamentati, tutti dicono che noi stiamo andando verso una catastrofe, un baratro che non lascerà molti morti nella strada, lascerà molte aziende chiuse, molti dipendenti a casa, solamente per una questione di finanza. Io credo che per riuscire a dare risposta alle imprese, quelle serie, noi abbiamo messo come associazione, l'ha già detto anche il Presidente Peghin precedentemente, noi ci siamo dati dei codici etici, perché anche per noi è indispensabile segnalare le potenziali infiltrazioni, è indispensabile difendere coloro che lavorano nella legalità, che quotidianamente si alzano e producono, fanno tutto quello che è indispensabile fare nei limiti della legalità, nelle norme, ancorché troppo farraginose, troppo complesse, che possono prestarsi anche a situazioni di discrezionalità che poi possono sfociare nella corruzione, nella concussione o quant'altro. Quindi io credo che da questo tavolo il grido d'allarme che io lancio è appunto questo. Dobbiamo ritrovare fiducia nelle istituzioni, soprattutto nello Stato. Non sto parlando, anzi, il sostegno alla magistratura e alle forze dell'ordine, al lavoro fatto quotidianamente da questi soggetti è indispensabile e da parte nostra va tutto il riconoscimento. Però dobbiamo uscire da questo impasse. Io credo che 70 miliardi di crediti vantati dalle imprese non possono più essere procrastinati se vogliamo mantenere un minimo di legalità ancora nel nostro paese. Questa è la prima considerazione che mi sento di fare, poi magari il procuratore mi darà la risposta, anche perché, come diceva lui prima, pecunia nolet, quindi nel momento in cui noi abbiamo bisogno di denari, credo che in un momento di difficoltà l'imprenditore si trova di fronte a un bivio. Sostenere una situazione indispensabile, io ricordo un carissimo amico che dicembre, 31 dicembre dell'anno scorso si è tolto la vita, era un mio carissimo amico, però di fronte a una difficoltà, soldi che non arrivavano, pagamenti che non aveva, si è vergognato talmente tanto nei confronti della famiglia di aver fallito, si è sentito un fallito, si è appeso a un trave del proprio capannone. Io credo che situazioni del genere siano intollerabili in un paese civile, quindi questa è la nostra situazione. Io lancio questo grido d'allarme che è sintomatico di tutta l'Italia. Per quanto riguarda il Veneto, io credo che in questo momento abbia ancora la capacità di reagire, abbia ancora la capacità di far fronte, ci sono molte aziende. Facendole una domanda, il Veneto secondo lei, è una domanda che poi andrebbe fatta a tutti, ha gli anticorpi, la coscienza per respingere, per capire cos'è il fenomeno mafioso, oppure c'è una forma di rimozione? Per anni abbiamo combattuto la sicurezza pensando che l'insicurezza fossero gli immigrati, probabilmente tralasciando altre forme di insicurezza meno visibili, apparentemente meno visibili. Quindi c'è, secondo lei, dice, usa la parola anticorpi, ce l'abbiamo noi gli anticorpi, e sono più nella società civile o ce li ha anche la politica? Perché la politica, non che i politici vadano assolutamente tutti demonizzati, perché è anche demagogico e troppo comodo, anche perché li leggiamo noi e alle volte noi siamo anche peggiori dei politici. Per cui voglio dire, abbiamo questi anticorpi? Secondo me sì, il Veneto, molte aziende del Veneto sono di prima generazione e quindi create nel momento del dopoguerra, nel momento dello sviluppo economico. Io credo che molti dei nostri colleghi non accetterebbero situazioni di, come si diceva prima, di tangenti o quant'altro, non di tangenti ma di infiltrazioni mafiose. Ritengo che anche i segnali dei suicidi sia proprio in questa direzione. Uno, piuttosto di arrivare a quello, preferisce togliersi la vita, appunto per quello che dicevo prima. Da un'analisi di Confindustria emergeva che l'85% delle aziende nei prossimi 10 anni subirebbe il passaggio generazionale. Di questo 85%, una stima era attorno al 90%, che diceva le aziende erano di prima generazione. Io credo che un imprenditore che si è costruito un'azienda, si è costruito un lavoro, è riconosciuto come persona all'interno di una società nel Veneto, non possa accettare determinate situazioni. Poi situazioni di infiltrazione, lei parlava di due ville, io sono a 10 km da due ville e conoscevo la situazione. Ci sono delle cose da denunciare, anche noi troppo spesso magari giriamo la testa, cosa che un amico mi diceva, non bisogna mai girare la testa, bisogna sempre denunciare. Noi comunque abbiamo segnalato che c'erano delle criticità, la ditta era sì di Lamezia Terme, però c'era anche un ribasso importante che a mio avviso non è stato sufficientemente valutato. Il sistema dell'affidamento degli appalti dal 92 in poi, quindi a Merlone prima, seconda, terza, quarta, adesso ho perso il conto di quanto siamo arrivati, probabilmente denuncia qualche carenza. È il caso di fare noi al nostro interno stiamo facendo una seria valutazione, quali sono le azioni per contenere i massimi ribassi, per contenere i lavori che vengono fatti secondo regole d'arte. Situazioni come denunciava il procuratore della società che non ti viene a portare il calcestruzzo perché è off limit oppure non è nel suo territorio, non mi risulta ci siano in Veneto. Questo è per bene, grazie. Non esenti da dibattito. Non esenti dal dibattito sono gli ordini professionali. Ingegneri, architetti, tutti i professionisti che hanno a che fare moltissimo con il mercato. Quindi io chiedo all'architetto Antonio Draghi, che è del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Padova, di così fare una sua riflessione su quanto è stato detto in relazione naturalmente alla tipologia del specifico della professione. Per prima cosa, ricordo che negli anni 90 io ho avuto modo, più di 30 anni che sono negli ordini professionali, ho avuto modo di essere nel Consiglio Nazionale degli Architetti, ed erano gli anni nei quali arrivava sul tavolo del Consiglio Nazionale, arrivavano le cause interne deontologiche di colleghi già giudicati negli ordini provinciali e nella fattispecie in particolare dall'ordine provinciale di Milano, colleghi coinvolti nelle questioni di Mani Pulite, cioè quella grande mole di corruzioni, concussioni e quant'altro, adesso i termini esatti io non saprei proprio tutti dire, che vennero scoperti a Milano. E dove erano coinvolti fondamentalmente questi nostri colleghi, per i quali noi credo nel 100% dei casi combinammo la radiazione dall'albo degli architetti in quell'occasione? Erano coinvolti in operazioni di tipo speculativo politico, operazioni comunque che apparivano come operazioni urbanistiche di valorizzazione, in particolare delle cosiddette aree industriali dismesse. I grandi episodici, anche di primo rango milanesi, videro molti colleghi, numerosi colleghi. Lì la categoria, sia i milanesi, i colleghi, diciamo, come dire, espressione del fare corretto, dell'agire nella legalità, anche tramite l'ordine degli architetti, che questa struttura, l'ordine è praticamente una sorta di istituzione che rappresenta in alcuni casi obbligatoriamente, anzi gli ordini rappresentano obbligatoriamente tutti i professionisti di una certa categoria, perché solo appartenendo all'ordine possono operare professionalmente. Medici, avvocati, architetti, ingegneri e altre categorie. Poi ci sono dei collegi, cioè di professionisti diplomati, lo dico perché vedo tanti giovani che magari non sono edotti di questa materia. Io ho colto nelle parole del dottor Gasso un ragionamento che è relativo sì al fenomeno mafioso, come dire, nel senso più comunemente inteso, cioè l'infiltrazione, il capitale malavitoso che cerca di ripulirsi, candeggiarsi. Però credo che nel Veneto siamo ancora, come dire, non tanto provvisti di anticorpi, questo no, io non mi sentirei di dirlo, perché ritengo che la situazione di crisi indebolisca gli anticorpi in generale, intanto, che ci sia una corruzione e uno svilimento dell'etica in maniera diffusa in tutto il paese, che la logica dei furbi ci sia e c'è quindi anche dentro le professioni, ovviamente, quindi va combattuta. Ma il discorso del procuratore mi sembra aver colto che voleva, come dire, mettere a confronto questa situazione criminale definita e definibile con una situazione, come dire, di debolezza, ma nello stesso tempo di possibile accoglienza, cioè un clima di comportamenti non corretti, al limite della legalità o appena al di fuori della legalità, che formano una situazione, che creano una situazione che può essere effettivamente, come dire, più perforabile anche dal fenomeno più accentuatamente, dichiaratamente malavitoso. Non sarà l'omertà alla siciliana, della quale talvolta ci riempiamo la bocca nelle discussioni un po' da bar, che però esiste probabilmente, ma esiste anche qui una certa omertà. Quando scopriamo affari e malaffari praticamente gestiti anche nel Veneto da gruppi di potere che comprendono politici, amministratori, imprenditori e quant'altro, e poi questo trovare che in definitiva ad esempio le grandi opere sono quasi sempre affidate allo stesso gruppo, in ragione ad esempio a Venezia di una legge speciale, in ragione a Venezia di una di un operare sempre in una sorta di emergenza o di specialità, per cui la concorrenza anche lì è molto condizionata. E credo che queste siano le cose di cui il Veneto dovrebbe, come dire, che dovrebbe correggere il Veneto, non l'Italia e tutto il paese. Allora, penso, il presidente Schiavo prima parlava degli appalti, dei ribassi, eccetera. Mi invito un po' a concludere. Sì, sì, sì, sì. A far parlare gli altri. No, no. Scusi, no, sa, non volevo, sì. Siamo andati un po' lunghi, poi anche per poi finiremo all'1:10, sì, perché sì. C'è la commemorazione del. Guardi, io dico, si vogliono regole diverse nell'affidamento degli appalti. Anche la legge degli appalti del 92 è stata progressivamente modificata. Una delle modificazioni fondamentali è stata ad esempio l'introduzione del project financing, il quale ha modificato un po' tutti quanti i rapporti rispetto al precedente comunque principio delle gare d'appalto. E il project financing significa finanza di progetto, significa che c'è un finanziatore privato di opere pubbliche, e già questo è un canale che credo possa essere ben visto da certi capitali mafiosi, ma questa è un'opinione mia, insomma, cioè, per carità, nel senso che sarebbe una buona lavatrice per candeggiare il capitale, diciamo, intervenire senza controlli su questo. Per quanto riguarda le professioni, finisco, avrei tante altre cose da. Lo so, però poi restano 12 minuti in tra i sindacalisti, poverini, finisco. Per ultimi, quindi. Io credo, e questo credo di poterlo rappresentare come un impegno anche in corso, credo che sia fondamentale che lo Stato, anche nella riforma delle professioni, riforma di tipo liberale, accetti in forma di sussidiarietà che le professioni nelle proprie norme etiche deontologiche trovino una fermezza tale ancora oggi, soprattutto nei concetti di anonimato, ad esempio di società professionali, che sono un po' problematiche, e che accetti questa sussidiarietà, che peraltro esiste per legge, anche nella pretendere il rispetto fondamentale delle norme deontologiche, che non potrebbero in nessun modo dire qualcosa di diverso da non appartenere alla mafia o a cose mafiose, ma devono dare una serie di regole, di comportamenti ben al di là di questo, certo, fondamentale. È un discorso molto importante, perché stiamo parlando di civismo e di regole. Regole è un sostantivo che gli italiani hanno conosciuto poco storicamente. Allora, Emilio Viafora, segretario regionale della CGIL, Maurizio Cecchetto della CISL, invece Bruno Zacchei parla in dove sostituisce il segretario regionale Colamarco, ma che è però validamente rappresentato. Quindi qualche minuto a testa per una riflessione su uno dei temi affrontati, tenendo conto che voi siete la società civile, rappresentate i lavoratori che lavorano nelle aziende, e quindi forse sul civismo si potrebbe dire qualcosa, visto, no? Che è stato introdotto il discorso. Poi strettissimo, dunque si fanno analisi molto, come dire, considerazioni molto tagliate. Siccome però parliamo a una platea di giovani, non soltanto di tecnici, io vorrei utilizzare questa occasione per fare tre brevissime considerazioni. La prima, io penso che noi dovremmo superare un atteggiamento ipocrita quando affrontiamo questi temi. L'ipocrisia in che cosa consiste? Consiste per esempio nel fatto che quando denunciai che eravamo in presenza, questo qui già 2 anni e mezzo fa, di gravi che c'era un pericolo reale e non soltanto teorico di infiltrazioni criminali e di pezzi di economia illegale in questa regione, si gridò, come fece per esempio l'ex ministro degli interni a proposito delle denunce fatte da Saviano, si disse che c'era un'esagerazione, che il Veneto da questo punto di vista era meno toccato dalle altre regioni. Io penso che se vogliamo mandare un messaggio, io lo voglio mandare ai ragazzi e alle ragazze che sono qui presenti, penso che dovremmo fare un'operazione verità, e l'operazione verità consiste nel fatto che si presenta in maniera diversa. Io sono calabrese, come si sente dall'accento, mi sono misurato, ahimè, nel mio lavoro sindacale, come dire, con un fenomeno indranghetista in altro modo. Si presenta in maniera diversa, ma c'è un pezzo di economia illegale che è strettamente, come dire, collusa con i poteri criminali. D'altra parte, la vicenda Gavio, per esempio, per parlare di una che è stata agli onori della cronaca, ha chiaramente dimostrato che non era stata la camorra a infiltrare l'azienda, ma che era stata l'azienda che aveva cercato la camorra. Potrei portare tantissimi altri esempi di questa natura, ma il tempo è breve. Io penso che c'è bisogno di prendere atto di una coscienza, siccome non è un dato antropologico, bene, a quale latitudine si nasce il tasso di potenziale atteggiamento criminale. Beh, forse dovremmo dire che la crisi ha accentuato, però era già nel corpo della società, perché lavoro nero, tanta evasione fiscale, tanta, come dire, vi ricordate le indagini padovane sui possessori di patrimoni di Ferrari che abitavano le case popolari? Tutto questo fenomeno abbastanza diffuso, come dire, sta sempre borderline. Dove le denunce, c'è una responsabilità, volte nessuna ipocrisia, questa giusta necessità di collaborazione tra Impolt, abbiamo fatto vedere appalti, entravano in alcuni settori, penso alla logistica. Per questo, per esempio, pensiamo che la legge che è in discussione alla regione, siamo l'ultima regione che adotta una legislazione antimafia, sia insufficiente, che è necessario accompagnarla con dei veri e propri patti di legalità. Io penso che questo chiama a una responsabilità collettiva, e penso che chiami anche ad un'azione profonda nelle nuove generazioni, perché guardate, ci sono troppi atteggiamenti illegali che vengono tollerati, va bene, verso i quali si chiude gli occhi e che preludono quasi sempre poi, come dire, a degenerare e ad entrare in relazione con organizzazioni che sono stabilmente insediate in Veneto, come dimostra anche il fatto che siamo la quarta regione italiana per confisca di beni alle organizzazioni criminali. Grazie Emilio Viafora. Io ancora mi scuso ancora, chiedo veramente rapidità a Maurizio Cecchetto e a Zacchei. Mi affido alla vostra autocomprensione. Mi pare che la cosa che emerge dalla testimonianza del procuratore e da ciò che ci siamo detti oggi, e da qui partire, è che non ci sono zone franche rispetto al rischio di infiltrazione criminale, malavitosa, mafiosa. E quindi si tratta di organizzare, vorrei dire, la resistenza del territorio, delle persone, delle istituzioni rispetto a questo rischio. E uno dei primi passaggi, condivido, è quello di smantellare la cultura del furbo, che è ancora presente nella nostra gente, anche nelle piccole cose. E noi, lo ricordava anche Viafora, abbiamo ancora qualche difficoltà con i lavoratori quando ad esempio portiamo avanti battaglie per contrastare i fuoribusta, tanto per dire una cosa semplice. Perché insomma c'è la sensazione che sì, le leggi vanno rispettate, però io sono un po' al di sopra della legge, insomma, quindi posso permettermi di andare un po' più forte rispetto ai limiti di velocità e anche di accettare un piccolo fuoribusta, cosa vuoi che sia. Quindi partire anche dal piccolo, dal basso, contrastare questa cultura e andare verso un ragionamento di rispetto della legalità. Quindi l'economia sommersa, che è un terreno classico di iniziativa del sindacato, contrastare il lavoro nero, l'economia sommersa è una delle nostre cose. Poi, attenzione, veniva ricordato prima, questo fenomeno ci colpisce in un momento di crisi. Quindi in un momento particolarmente difficoltà, in cui, diceva bene l'architetto, gli anticorpi rischiano di essere un po' indeboliti. Quindi attenzione a dare a questa società che vive un momento difficile, quindi alle persone, alle imprese, agli imprenditori, ai lavoratori, alle istituzioni, dare dei punti di riferimento chiari, che significa credibilità delle istituzioni, e questo è un problema di oggi molto, molto forte. Quindi cercare di non fare di tutta l'erba un fascio, ma anche di mettere ordine sulle cose che non funzionano, in maniera molto selettiva, molto drastica, ma vista io, e anche testimonianze individuali, testimonianze collettive, attraverso associazioni, penso a Libera, penso ad altre anche associazioni più piccole che esistono nel territorio, che lavorano bene su questi temi. E per quel che ci riguarda, e chiudo, la cosa che stiamo tentando, su cui lavoriamo anche come sindacato, oltre che su un discorso generale, ma che qui non affronto, che è quello della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, e quindi capire anche per questa via se si può contribuire ad arginare alcuni fenomeni, noi stiamo lavorando nel tentativo di creare delle professionalità, sviluppare nei posti di lavoro professionalità che siano resistenti a fenomeni di questo tipo. E qui c'è tutto un lavoro che ci coinvolge in prima persona, che credo che possa essere importante nel medio e lungo periodo. Grazie Cecchetto, bravissimo. Zacchei? No, ma io voglio riflettere su un aspetto. Purtroppo io penso che questa regione stia sperimentando e stia subendo le due facce della mafia. Sta subendo la mafia che non parla il dialetto ma parla le lingue del mondo e ha la faccia pulita, e sta subendo anche l'altra mafia, la mafia con la faccia sporca. Se è vero che noi siamo in crisi e questa crisi è figlia del cinismo della finanza, noi pensiamo che anche le mafie ci abbiano messo del suo. Così come appare altrettanto certo che questa mescolanza tra mafie e sistema produttivo e sistema finanziario certamente sarà di forte ostacolo per quanto riguarda la ripartenza. Ora è chiaro che in un periodo di recessione come questo si presenta anche l'altra mafia. Ci sono già delle e con il sindacato per depennare quello che è il lavoro nero per quanto riguarda tutte le opere pubbliche. Per quanto riguarda gli appalti, qui abbiamo raggiunto degli accordi a livello provinciale dove non si fa il massimo ribasso ma si fa economicamente vantaggioso. Però c'è la prima contraddizione: gli appalti pubblici sfuggono da questa regola e da queste nostre impostazioni. Grazie. Io prima di ripassare la parola al procuratore Grasso, prima io ho parlato di forze di polizia. Qui abbiamo dei rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, che dobbiamo secondo me ringraziare con un applauso, perché sono quelli che fanno le indagini spesso con poche risorse, con leggi difficili, con burocrazia fra i piedi. Quindi a loro va dato, in Veneto in particolare, dove è aperta la frontiera delle mafie, va dato questo coloso applauso, perché sono anche loro, tra virgolette, invisibili, ma loro sono invisibili nel bene, non sono invisibili nel male. Grazie ancora. Procuratore, ora se vuole lei concludere. Bene, io vi ringrazio, è stata una mattinata bellissima che mi ricarica, mi arricchisce, mi dà la possibilità di continuare nel mio lavoro. Io vorrei concludere ricordando quello che mi diceva un mio vecchio professore di storia e filosofia, che mi diceva, sosteneva che la caratteristica che più si deve apprezzare tra i giovani è l'ingenuità. Allora io dicevo, ma scusi professore, essere ingenui significa essere un po' fessacchiotti, un po', insomma. Lui diceva, no, io non intendo in quel senso, perché i giovani, oltre all'entusiasmo, essendo non sono come gli anziani, che sono diventati cinici perché hanno visto che tante cose non sono cambiate nella loro vita e che quindi ormai si sono rassegnati, diventano indifferenti, tanto non cambia nulla, tanto è sempre lo stesso. Invece i giovani, proprio perché ancora sono ingenui, possono coltivare la speranza che le loro idee, i loro sogni, i loro desideri si possano realizzare. E questa è quella spinta che potrà veramente cambiare il mondo e dare un futuro migliore, proprio perché i giovani hanno questa capacità di sognare. Allora non perdete la capacità di sognare e vedete di realizzare i vostri sogni. Dopodiché tutti insieme, soffiando ognuno individualmente, possiamo creare un vento fortissimo che riesca a cambiare il nostro paese in meglio, un vento che possa spazzare via la droga, che possa spazzare via le armi, che possa far rimescolare tutte le carte degli appalti truccati, un vento che possa togliere le fatture false che girano, che producono poi i falsi in bilancio, un vento che possa veramente far respirare un'aria diversa, un'area in cui non ci sia indifferenza e rassegnazione, non ci sia verità nascoste o trattative funeste, un vento che possa veramente tutti insieme farci dire noi no, noi non ci stiamo con la mafia e noi stiamo con la legalità, con lo Stato, per un mondo migliore. Grazie. Grazie al procuratore Grasso. Un attimo che l'assessore Piron deve dare una comunicazione. Grazie a tutti voi, grazie agli ospiti. Noi ci spostiamo rapidissimamente, per chi vuole, davanti al municipio, dove con il prefetto, il sindaco e le autorità ricorderemo l'alpino che è stato ucciso in Afghanistan, Tiziano Chiarotti, un giovane di 24 anni in missione di pace. Buona giornata a tutti.